Il terzo anello, ad alta voce. Francesco Siciliano legge Con gli occhi chiusi, di Federigo Tozzi. Isola viveva più volentieri così, quando Pietro, venuto il tempo degli esami, andò a trovarla. Suonò al piccolo uscio, la cui vernice celeste s'era screpolata al sole. La piastra di porcellana, bianchissima, con i numeri della casa luccicava alla luce, e i numeri turchini danzavano e s'aggrovigliolavano. Udì un calpestio, e poi una voce di donna gli rispose nel momento che la porta s'apriva. Egli salì in fretta, respirando forte, come se il troppo fiato durasse fatica a passargli per le narici e fosse diventato liquido. «C'è Ghisola?» La donna, incuriosita e sorridendo del suo imbarazzo, gli rispose come avesse risposto tutta la stanza. «La chiamo subito». Un raggio di sole penetrava da uno strappo dello stoino della finestra fino al mezzo della stanza e dal raggio si diffondeva una chiarità tranquilla. Ma quel silenzio sembrava un abisso e un acquato inspiegabili. Non di meno egli si sentiva lieto. Udì alcuni passi rapidi. Era Ghisola. Riconosciutolo, rise e arrossì. Poi rimase il suo sorriso soltanto. Ed egli credeva, guardandola, di non vedere il suo volto e non fu capace di salutarla. Allora ella lo toccò sopra una mano, lo invitò a sedersi e si appoggiò alla tavola aspettando che parlasse. Lì per lì, un poco sconvolta, s'era sentita prendere dalla voglia di piangere, vincendosi perché la vedesse subito imbellita. La striscia della luce, essendo sulla sottana, aumentava la chiarità. La sua buona Ghisola l'aveva ritrovata. S'alzò di scatto. E allora poté chiederle, guardando una parete, «Da quando sei qui?» Ella glielo disse con una disinvoltura che a Pietro dispiacque, e tenendo le mani insieme dinanzi chiese, «È fidanzato?» «No, ma ebbe voglia, chissà perché, di dirle una bugia». «So che è fidanzato, invece». Fece un gesto di furbizia e riprese come se avesse parlato di una cosa che la mettesse di buon umore. «Crede che io non sia informata di lei?» Ma Pietro, per la contentezza, era incapace di parlare. Ella se ne avvide e le apparve tra gli occhi e la bocca un segno di dolcezza. Allora Pietro, credendo giunto il momento opportuno, disse senza guardarla: «Ho pensato sempre a te». «E tu? Hai mai pensato a me?» Sentì che con queste parole s'era riallacciato al suo sentimento e credette di chiudere dentro esso anche Ghisola. Era necessario strapparla da quella gente che la teneva con sé e che egli non conosceva. Divenne taciturno. Ed ella fece una di quelle mosse che rivelano di scorcio tutte le abitudini di un'esistenza. Pietro non comprese, ma però le domandò: «E nessuno t'ha mai voluto bene?» Ella non rispose. Egli ripeté la domanda. Non rispose lo stesso. Credette di aver preteso di sapere troppo per la prima volta. Avrebbe dovuto però essere subito sincera. Allora si chiese se poteva parlarle con la stessa confidenza di prima e sentì una gran simpatia per quel silenzio improvviso d'agguato, perché per lui era una cosa insolita. Ella aspettò che rialzasse la testa e gli chiese, quasi scherzando, «Le piaccio adesso?» Egli non volle risponderle, provando una gran contentezza. All'infuori di loro e della stanza non esisteva più niente. Ghisola proseguì: «M'amerebbe ancora?» Allora rispose con uno sforzo, come se avesse parlato con la voce di un altro: «Se tu non hai amato mai!» C'era un silenzio tale che ambedue credevano di udire i movimenti delle loro congiunture ed evitarono di guardarsi. Pietro non trovava più che dirle, gli pareva che qualcuno gli imponesse d'andarsene. Si piantò in mezzo alla stanza, dette un'occhiata a Ghisola, le stese la mano e uscì lentamente, non sapendo come uscire, battendo una spalla nell'uscio. Ella fu contenta che la visita fosse finita così in fretta, perché avrebbe potuto giungere il suo amico. La scala era di mattonelle consumate, concave e sottili. Guardandole, gli pareva che i suoi piedi le sfondassero. Un grande tremito lo scuoteva. Richiuso l'uscio con un tonfo che gli parve troppo forte, alzò gli occhi e vide Ghisola, affacciata ad una loggetta di ferro. Lo salutava, muovendo il capo. Ma egli non ebbe la forza di risponderle. Si voltò due volte, sempre con il desiderio che fosse lì, tutto intenerito per lei e pensando che aumentava sempre più l'impossibilità di poterla salutare, ed entrò in città senza nemmeno avvedersene. Tornò a casa molto tardi. Cambiò di posto i libri portati da Siena. Tolse dalla valigia tutta la biancheria. Durante la notte si svegliò due o tre volte. Prima di riaddormentarsi si disse, sempre con gioia, a voce alta, «A domani c'è poco». Stette indeciso tutta la mattina e la sera le scrisse, perché sentiva d'amarla davvero. Di Ghisola non si ricordava come fosse il volto, ma piuttosto, senza vederli chiaramente, gli pareva che si ripetessero i suoi movimenti intorno a lui. Il colore del suo vestito era diventato una luce che di quando in quando sopraggiungeva come un lampo. Ghisola si fece leggere la lettera dal suo amico, a cui aveva già detto a suo modo della visita, non fidandosi della lingua di Beatrice, la donna di servizio veduta da Pietro. Il signor Alberto le domandò ridendo, «Perché ti scrive? Sembra che ti ami da molto tempo, è una lettera curiosa, fammela rileggere». Ad ogni frase, questa volta si fermò per guardare Ghisola, che gli stava appoggiata ad una spalla. Riprovavano quei sentimenti che s'erano espressi, sapendo che non sarebbero stati possibili a loro. Finita la lettera, egli baciò l'amante. «Questo è suo». Ella strappò il foglio e si mise, per farlo ridere di più, ma anche per l'allegrezza, a camminare con i tacchi e a girare su se stessa. Egli ci si divertì, ma chiese, «Ma come fai a volergli bene?» «Così». E rifece un gerbo sentimentale con tutta la persona. «Però tu non mi dici ogni cosa». La prese per un orecchio e le domandò sottovoce, «Anche a lui?» Ella si rialzò tutta impallidì, rispondendo più lesta che le fu possibile, «Te lo giuro, ma se mi sposa, perché non vorresti?» Egli allora si sarebbe perfino scusato. «Soltanto voglio essere certo che, per il bene tuo, che ti ama davvero, che è ricco, come tante volte hai sognato di trovare qualcuno, altrimenti mi pare che potresti restare dove sei». «Se è ricco, suo padre ha 10 poderi e una grande trattoria». «Ma il suo consenso? Ma scommetto che ce l'ha mandato lui». Il signore Alberto credette a Ghisola e ne fu contento. Mentre ella prendeva i piatti dalla dispensa per metterli sulla tavola, pensò che avrebbe potuto, se gliene fosse venuta la voglia, restarle amico. Ma i suoi affari non andavano bene e bisognava allontanare da sé quella vita troppo pacifica e troppo oziosa. Ghisola lo spiava quando egli, senza accorgersene, abbassava la testa, aspettando la sua più intima risoluzione, quella che forse avrebbe nascosto. Temendo che stesse troppo a pensare, gli disse, «Che cosa c'è stasera? Sei tornato coi nervi?» Egli sorrise e rispose, «Hai ragione, sono troppo anziano per te. E ti sacrificherei. Sono io che voglio che tu ti faccia sposare». «Ma perché ne parli? Ce n'è bisogno, mi fai rabbia». «Sei tu che ne parli, cara Ghisola. Ma mi viene una buona idea. Dimmela. Devi comportarti in modo da potergli far credere dopo che t'ha fatto restare incinta lui. Non ti sarà difficile, non ti piace?» Ella si morse le labbra in fretta, con le spalle volte al lume. Poi si mise a girare un dito intorno all'orlo del suo piatto. Egli le chiese, «Ebbene?» «Non gli rispondo nemmeno. Se torna qui, gli butto un secchio d'acqua addosso. Ghisola, lusingata perché aveva capito subito quanto Pietro l'amava, invece di rispondergli con un'altra lettera, andò lei stessa a trovarlo. Non poteva darsi che la sposasse davvero. E allora sarebbe tornata a Siena non contadina ma padrona. Quando ella arrivò, Pietro stava in camera con un libro in mano, ma senza studiare. Arrotolava con le dita i lembi delle pagine. Invece di due esami, ne aveva dato uno solo e pensava a Ghisola. No, egli doveva andare agli esami. Doveva fare in quel modo. Quando ella aprì l'uscio senza nemmeno aver bussato, il cuore gli fece un balzo ed esclamò: «Vieni, t'aspettavo». Ella, un poco seria, si sedé, alzando la veletta fino al cappello ornato di violette finte, ed egli le disse: «Levatelo». Egli non aveva mai detto così a nessuna donna. Ella, quasi che lo sapesse o lo sentisse dalla voce, sorrise di buon umore e, dopo aver esaminata con affettata diffidenza tutta la stanza, andò allo specchio, sfilò lo spillo e se lo mise in bocca. Lo posò con il cappello sul marmo del canterano. Averla sposata subito! Com'era bella! Si sederono a faccia, provando egli un piacere impacciato a sorriderle ed ella badando a fare come lui. Poi avvicinarono le mani insieme sopra il tavolino ed egli le pigiò ad uno le dita in silenzio, come per convincerla che non c'era niente di male. Il sole faceva diventare rosse le stecche della persiana chiusa. Egli si alzò e la baciò ed ella socchiuse gli occhi, ma nello stesso tempo avrebbe voluto rimproverarla dicendo: «Ti puoi fidare, ma se io non t'amassi così davvero». E le teneva strette le mani per provarle che l'amava, piacendogli il suo odore di sudore. Ghisola abbassava le palpebre tutte le volte che incontrava il suo sguardo, ma gli sorrideva, quasi invitandolo a capire e a smettere di amarla a quel modo, con la pretesa di non essere mai stata di nessuno. Poi tossì e appoggiò il dorso alla sedia per stare più discosta. Ella, dunque, era sua. Ma che le dava in cambio di tanta gioia? E perciò le chiese: «Puoi amarmi anche tu?» Ghisola tacque, piegando la testa. Egli insisté per farsi rispondere, con una dolcezza che voleva fosse apprezzata. Allora ella lo baciò per la prima volta, come se non sapesse baciare, strofinandosi poi il fazzoletto alla bocca, quasi fosse pentita, e disse lesta: «Bisogna che torni a casa». Pietro pensò: «È bene, infatti, che non stia molto tempo qui». E le chiese il permesso di ribaciarla. Ghisola allora finse di rimproverarlo perché non gliel'aveva chiesto anche prima, mortificandolo senza che egli sapesse quel che rispondere. Il nero delle sue pupille aveva quella lavatura che pigliano le cose quando stanno in fondo all'acqua. Ma nel mettersi il cappello si bucò con lo spillo un dito. Poteva farsi male anche se egli era lì. Le afferrò la mano, guardando la stilla di sangue che ingrossava sempre più. E quando fu per cadere, la succhiò. Ella lo lasciò fare, incuriosita, ed egli sorrise come a un ragazzo, già con una dolcezza che era più confidenziale e più buona. Pietro, inebriato, le disse: «Me ne ricorderò sempre». In piazza Beccaria, gli alberi mossi dal vento, pareva che non ci dovessero entrare più, il fazzoletto le cadde di mano. Egli lo raccolse e lo tenne finché non si lasciarono. Il fazzoletto era quasi la stessa cosa con il vestito di lei. «Quando torni?» Ghisola non sapeva se il suo amico le avrebbe fatto far subito davvero quel che voleva. Non lo so. Pietro si sforzò di capire se ne dovesse pensare bene o male. Certo, gli parve impossibile che la se ne andasse. Domani? Ma gli dispiacque insistere, non sapendo se sbagliava. È troppo presto, tra 5 giorni. Ella sorrise soltanto per prendere tempo. Pensa che t'aspetto. Non mi credi? Dimmelo che mi credi. Tutti i giorni Pietro l'attese. La rivedeva lì, con le braccia sul tavolino, ma la sensazione d'averla trovata soltanto e di non amarla cresceva. E non andava agli esami. Quantunque ci pensasse continuamente e si immaginasse come in un'allucinazione che lo spaventava d'essere interrogato e di non rispondere. Andò invece a cercare Ghisola, con un'impazienza che lo faceva perfino piangere. Ella stessa aprì l'uscio e Pietro fu sorpreso di amare proprio lei nel momento che le chiese: «Ma aspettavi?» Ella, per tenerlo a bada, rispose: «Forse». Allora, quantunque provasse una specie di contrarietà anche a parlare, gli venne detto: «Non potremmo stare insieme nella strada, sei sola». Ghisola rifletté e poi rispose: «Aspettami dinanzi all'abbadia». Pietro non ne provò nessun piacere, perché il senso disagevole di una menzogna indefinibile lo opprimeva. L'aspettò soltanto per non mancare a ciò che egli stesso le aveva chiesto. Tirava vento, ma c'era dovunque il sole ardente di luglio. Per la strada di Bisarno alcuni cipressi si muovevano in fondo alla svolta e pareva che la luce fosse continuamente cambiata dal vento. Olivi in fila sporgevano con i rami lungo il muro e le loro chiome d'un verde tenero si sbattevano sopra. E anche le loro ombre parevano chiome, appena si distinguevano da quelle vere. Ella venne a passi rapidi. Era senza cappello e portava al collo una catena con un cuoricino d'oro. Pietro temette d'essere ridicolo dicendole che doveva tornare a Siena, ma infine ella gli chiese, dopo aver camminato in silenzio mentre egli le guardava sempre le mani: «Quando vai via? Domani? Non ci vedremo più dunque?» Egli, sorpreso da quella calma un poco scherzosa, chiese sospirando: «Penserai sempre a me?» Allora Ghisola rispose con convinzione, quasi con ubbidienza: «Sempre». Poi lo guardò e, vedendo la sua contentezza, riprese: «Tu pensi che io t'ami poco?» Egli, quantunque fosse vero, rispose: «Mi fido di te». Ghisola, tenendo la testa bassa, risorrise, ma questa volta la bocca si indugiò nell'atto piacevole. Quella strada, dove il vento sollevava qua e là nembi di polvere bianca senza farsi sentire, era così solitaria come non ci fosse mai passato nessuno. Ghisola gli pareva bella in un altro modo e più grassa. Sì, anche così è vestita bene, ma egli non poteva levare gli occhi da quel cuoricino, glielo voleva portar via, perché sennò l'avrebbero guardata di più proprio nel petto. Ghisola se ne accorse e aspettava. Egli, allora, quando vide che se n'era accorta, le chiese: «Perché lo tieni?» Ella arrossì e parve che volesse proteggere il cuoricino. «L'hai comprato tu o ti è stato regalato?» «Regalato? Dimmi chi, dimmelo subito». Egli si soffermò dinanzi a lei e l'obbligò a fare lo stesso: «La mia sorella Lucia». «Quanto tempo è?» «Anno quando venne a trovarmi». «E ti vuol bene?» «Lei sì, ma io no». «Perché? Non lo so». «Perché? Dimmelo. Se non lo dice a me, non lo so. Non ci assomigliamo di carattere». Egli pensò che potesse essere vero, perché erano completamente dissimili anche di persona, e ne ebbe piacere. Ma nondimeno era geloso lo stesso anche della sorella, e le disse: «Te ne comprerò uno io e porterai il mio, ossia il tuo, perché niente è più mio. Sei contenta?» Francesco Siciliano ha letto Con gli occhi chiusi di Federico Tozzi. a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, @rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.